Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Jules Jimes di Henri-Pierre Rocher, edizione Gallimard, 1953, traduzione di Ena Marchi. Il villino di Edgar Allan Poe. Kate portò Jim nella capitale del suo paese. Gli mostrò la facciata della sua casa natale e gli raccontò i suoi ricordi d'infanzia. Ritrovarono Fortunio e videro locali dove marinai ballavano fra loro ed altri dove dattilografe ballavano fra loro. Frequentarono altri locali che restavano aperti tutta la notte nonostante i regolamenti e dove la minaccia di una retata della polizia con l'oscurità in cui ci si trovava immersi all'improvviso era per gli abituè un'attrazione supplementare. Videro un balletto clandestino di ragazze nude e pudiche che era un vero capolavoro. Ne videro altri dello stesso genere, non un granché. Jim, con gran sorpresa degli amici, si stancò presto della vita notturna e preferì passare le sue serate a casa. A casa era un villino a un solo piano, alto, una bella costruzione di mattoni rossi e neri che dava su un grande giardino interno in un quartiere residenziale e che era stato prestato a Kate da Irene, la sorella maggiore. Comprendeva un ampio salotto con veranda, una sala da musica e due grandi camere da letto. Il mobilio era eteroclito, tra sontuoso e comodo. Armadi e cassettoni erano stipati di souvenir, tra i quali spiccava una dozzina di cappelli romantici che erano stati portati da Irene. Questa viveva un'ora da lì in una bella casa di campagna con 5 figli. Il villino era il loro piedatere in città. Jim aveva visto negli album di famiglia una fotografia di Irene da ragazza. Aveva avuto l'impressione che se non ci fosse stata Kate di 6 anni più giovane, Irene avrebbe forse potuto attirarlo. Aveva un sorriso non arcaico, ma accattivante e le pupille ben centrate. Da quando era rimasta vedova era attorniata da una piccola cerchia di pretendenti e di innamorati. Kate portò Jim a passare qualche giorno a casa di Irene. Lui sapeva che pochi mesi prima Albert aveva vissuto lì per 2 giorni insieme a Kate. Le due sorelle erano per natura rivali, ma si aiutavano a vicenda per principio nelle faccende amorose. Irene civettò con Jim, nonostante la presenza della sua corte e di Kate. I figli di Irene erano alti e belli. Kate e Jim passarono un'intera notte con i due più grandi sul lago, nella loro barca a vela. Per farli dormire, i due ragazzi li avvolsero nella vela di ricambio. All'alba giocarono a tennis usando come racchette dei sottobicchieri di cartone in una locanda in riva al lago. I nipoti di Kate se la baciavano come innamorati. In casa tutti parlavano con severità delle scappatelle di Irene, ma tutti la amavano. Il villino, già in se stesso singolare, divenne un po' più Edgar Allan Poe per Jim a causa dei fatti seguenti. Jim se ne stava a fantasticare nella veranda con un sigaro fra le labbra, fissando il lungo muro di mattoni scuri che separava il loro giardino da quello attiguo. A un tratto gli sembrò che il muro non fosse più perpendicolare al terreno. Si stropicciò gli occhi. Con una lentezza strana, il muro si inclinò, ruotò intorno alla sua base e si abbatté per tutta la sua lunghezza sui cespugli, le gabbie per i polli e le biciclette con un rumore sordo. Si alzò una nuvola di polvere. L'indomani Jim dormiva tenendo Kate fra le braccia. Gli parve di vedere la polvere del muro che saliva dal parquet della camera e di ingoiare i capelli di Kate che gli facevano solletico in gola. Aprì gli occhi e vide una bella nebbiolina rosata che si arrotolava involute proprio al di sopra delle loro teste. «Che strano sogno», pensò. Poi capì che non era un sogno. Un fumo denso riempiva la parte alta della stanza e attraverso la finestra il sole nascente lo colorava. Soltanto in basso, verso il parquet, non ce n'era ancora. L'odore di bruciato lo svegliò definitivamente. Scosse leggermente Kate, il cui peso lo teneva prigioniero. «Kate, c'è il fuoco qui!» Kate aprì un occhio, annusò il fumo, valutò la situazione e richiuse l'occhio. «Guarda, Kate, che se si spaccano i vetri va tutto in fiamme!» «Lasciami stare un momentino, Jim, ho capito cos'è.» «Che cos'è, Kate?» «E quella benedetta Irene, con il suo disordine, ha appoggiato il fornello a gas su una cassa di imballaggio alle stelle piena di paglia e di ovatta per un giorno e ci è rimasto per 5 anni. Ieri sera, preparando la cena, quella benedetta Kate o quel benedetto Jim avranno lasciato cadere un fiammifero mal spento in una fessura e ora il fuoco cova nella cassa. Se andassimo a vedere... Oh, adesso che sappiamo di che si tratta... E si rimise in posizione per dormire. Jim non poté impedirsi di ridere. Poi però ci andarono. Ostacolati dal fumo, annaffiarono invano la cassa e finirono per trascinarla non senza fatica e precipitarla giù dalla finestra. Durante questo lavoro, Kate, completamente nuda, fu dei due la più abile e la più efficiente. Una sera, tardi, andarono a far visita a Kate due baroni un po' alticci. Jim non volle alzarsi. Kate le ricevette. Jim, dal suo letto, sentiva i loro scherzi rumorosi. Facevano a Kate svariate proposte, la migliore delle quali era di permettere loro di buttare il suo francese dalla finestra. Jim ebbe voglia di fare un'apparizione, tanto per vedere, ma era troppo pigro per vestirsi. Kate si divertiva a quella conversazione e l'alimentava a forza di bicchierini. Sopportava molto male l'alcol e a Jim non piaceva che avesse a che fare con liquori e baroni. Quando se ne furono andati, lo disse pacatamente a Kate. Lei la prese male. Si scontrarono con la loro solita convinzione e rapidità. In un attimo fu tempesta. Kate nominò Gilbert. Jim rispose: «Gilbert equivale a Jules». Kate ribatté: «Gilbert equivale ad Albert». Diventarono cattivi. Sentirono Jules, che era lì per qualche giorno, rientrare dal teatro e mettersi a letto nella camera accanto alla loro. «Tu e Jules», disse Kate, «che psicologi! Hai voglia di scrivergli le cose nero su bianco? Loro le leggono senza capirle, facendosi delle strizzatine d'occhi». «Per esempio?» disse Jim. Fu per quel poco di alcol che aveva bevuto. Kate decise di colpire a fondo. «Per esempio», disse, «nel mio diario dell'anno scorso, il giorno prima della tua partenza, quel pomeriggio in cui sei andato al cinema da solo, ho scritto: sono andata da Harold e a un certo punto lui mi ha messo le mani sopra i fianchi». E ripetei, indicando le mani con lo sguardo, poi rialzando il viso verso un immaginario Harold: «Sopra i fianchi». Se non è chiaro questo, che cosa vi ci vuole? Stava a testa alta, coi capelli sciolti, in ginocchio sul loro grande letto, gli occhi negli occhi di Jim. Lui vi lesse che era la verità. Così lei aveva fatto questo nel pieno della fiducia di Jim, nel momento più caldo del loro amore, e s'era tenuto nascosto quel veleno nonostante le loro confessioni e liquidazioni. Qualcosa crollava dentro Jim, come il muro. Nello stesso tempo un peso si accumulava nella sua mano destra. La abbatté ben aperta sulla faccia di Kate, che fu proiettata di traverso sul letto. Lui vide le due fossette delle reni che gli piacevano tanto e gratificò di un diretto ciascuna delle due, sorpreso come sempre dall'elasticità delle carni di Kate. Lei lanciò un urlo. Bussarono alla porta. La voce di Jules chiese dal salotto: «Che cosa c'è? Avete bisogno di me?» «No, grazie, Jules», gridò Kate rialzandosi, tumefatta, radiosa. «Finalmente», sussurrò a Jim, «un uomo che osa picchiarmi quando me lo merito. Tu mi ami, Jim», e affondò la faccia nel petto di Jim. Lui non la respinse a lungo, ma quella visione delle mani di Harold restò latente dentro di lui e a ogni crisi pensò: «Che cosa mi nasconde ancora?» Kate ebbe male alle reni per parecchi giorni e la faccia gonfia che portò in giro per la città. Jim aveva ricevuto un colpo più forte di quello che aveva dato. Doveva applicare la legge del taglione? Si presentò presto un'occasione. Kate dovette andare per 24 ore da sua sorella per un appuntamento col notaio di famiglia. Irene la prese astutamente in contropiede e si presentò a casa sua, davanti a Jim, a mezzogiorno, nel momento stesso in cui Kate arrivava alla casa di campagna della sorella e trovava un suo biglietto. Jim non poteva fare altro che invitare a pranzo Irene. Lei portava un abito estivo che esaltava la sua pienezza sana e un cappello romantico che non avrebbe sfigurato in mezzo agli altri. Era di buon umore. Aveva acquistato per un capriccio un bel prato e una collina boscosa a un prezzo eccessivo che la sua famiglia le rimproverava, ed ecco che la rapida svalutazione faceva di quell'acquisto un ottimo affare. Per strada Jim e Irene si imbatterono in un carretto carico di rose rosse. Jim gliene offrì un fascio, senza neanche pensare al loro significato. Irene aveva qualcosa della creola e della bambina viziata, paragonata alla serietà di Kate. manifestò l'intenzione di dormire in una delle due camere da letto del villino, era in casa sua, e il desiderio di andare a vedere un certo film. Jim si offrì di accompagnarla. Si misero d'accordo anche per cenare in un localino simpatico in cui l'avrebbe portato lei. Mentre prendevano il tè, Irene parlò di Kate, della loro infanzia, delle loro idee che divergevano su tutto. Si stimavano, ma non erano d'accordo su niente, nemmeno sull'amore. A questo proposito, a Jim sembrò prudente dichiarare, in previsione della prossima notte, che credeva in certi casi alla fedeltà e che lui almeno la praticava nei confronti di Kate. «Bravo!» disse Irene con un sorriso di sfida. Jim sentì che aveva deciso di divertirsi e di attaccare a fondo lui, Jim. Aveva un profumo esotico. Il suo naso e il suo mento erano varianti più femminee del naso e del mento di Kate. Però Irene, che superba vendetta sarebbe stata contro Kate. Che pugnale piantato in lei questa volta perché sapesse che cosa significa e cancellando così le mani di Harold allargate su di lei. Nell'attimo che seguì al suo proclama di fedeltà, Jim si abbandonò mentalmente a Irene. Avrebbe voluto anzi che fosse subito, senza film e senza cena. Rientrarono a casa già complici. E lì chi trovarono seduta al pianoforte, pallida con un pigiama di seta rossa che eseguiva una sonata di Beethoven intenta come una bambina? Kate in persona. Appena trovata la lettera in cui Irene le spiegava la sua assenza, Kate, che conosceva sua sorella e il suo Jim, era ripartita, senza notaio e senza pranzo, verso l'unico treno che poteva riportarla in città il giorno stesso. E li aspettava. Kate fu severa con Irene, che se ne stette con la coda fra le gambe. Nelle discussioni tra le due sorelle era Kate ad avere la meglio. Irene si ritirò nella sua camera e convocò per telefono un altro cavaliere. Kate fu straordinariamente indulgente con Jim. Capiva e perdonava, tanto più che lui non aveva ancora fatto niente. Come una giovane madre che nega al figlio dal pasticcere un dolce che lui desidera e che gliene dà un altro fatto in casa, non deve piangere, deve sapere che quello che ha avuto è meglio per lui, così Kate, china su Jim, gli fece dono dei suoi tesori osservandolo. E un brandello dopo l'altro strappò da lui tutto il desiderio che poteva aver avuto per Irene. E fra loro fu fatta la pace senza che Jim avesse applicato la legge del taglione. La passeggiata nera. Tornarono allo chalet. La primavera era sfiorita, era arrivata l'estate. Il divorzio era concluso. Si avvicinava la data in cui Kate e Jim avrebbero potuto concepire un figlio che non portasse il nome di Jules. Le formalità erano numerose e difficili a quell'epoca per un matrimonio fra cittadini delle loro nazioni. Poco importa, pensava Jim. Facciamo il nostro bambino, avremo il tempo di perfezionare il matrimonio prima della sua nascita. Fecero una passeggiata con le bambine. Vicino al villaggio uno zingaro aveva messo in un recinto le sue due scimmie. Le piccole entrarono per dar loro delle nocciole. La scimmia più grande saltò sulle spalle di Lisbeth, le prese le nocciole e le tirò i capelli. Jim stava scavalcando il filo spinato per intervenire, ma già Kate s'era infilata da sotto e metteva in fuga la scimmia. «Com'è svelta!» pensò lui. La sera a tavola si parlò di animali che abitano in caverne o in fondo al mare. Kate disse alle figlie: «Non esistono mostri perché loro non sanno di essere mostri per gli altri. Sono innocenti come noi. Come noi amano i loro piccoli. Dio li ha fatti così. Ed è anche il padre dei serpenti, dei ladri e degli assassini». E tutti si intenerirono sui mostri. In un negozio di articoli sportivi dove avevano fatto degli acquisti, Kate sgraffignò con decisione una piccolissima bussola che mostrò fieramente alle bambine. «È una china pericolosa», disse Jim. «È così divertente», disse lei, «e poi tutto il resto l'abbiamo pagato». Arrivò finalmente la data per cominciare il bambino. Furono quasi sorpresi da quella libertà tanto attesa. Si erano preparati scegliendo il cibo, facendo una vita sana, escludendo ogni altro scopo. Avevano fissato pressappoco la data della nascita. Fecero il loro bambino religiosamente. Si sentivano come due bestie selvagge e libere nel parco la notte e nel loro antro il letto dalle colonne pitturate. Venuto il momento, videro con stupore che Kate non era incinta. Jules fu teneramente ironico. «È come al golf», disse Kate. «Quando uno è troppo sicuro di farcela, sbaglia il tiro». Così ricominciarono più modesti. Furono Adamo ed Eva sottomessi ai loro istinti. Un mese più tardi ebbero di nuovo la certezza che Dio non aveva benedetto la loro unione. Questa volta fu un brutto colpo. Andarono da uno specialista che li trovò normali e idonei alla procreazione. La parola normali quasi le offese. In queste cose facevano fatica a accontentarsi di essere nella media. Il dottore disse loro che bisognava saper aspettare, che c'erano dei fatti imponderabili e che molte coppie sono feconde solo dopo parecchi mesi. Kate e Jim si sforzarono di essere pazienti. Ricominciarono, Kate a disegnare, Jim a scrivere. Poi andavano per i grandi boschi, si amavano. E Jim sollevava Kate per i piedi e la scuoteva piano come quando si sistemano le noci in un sacco per aumentare le probabilità di avere un bambino. Si sentivano fratelli dell'erba, delle pietre, degli alberi, delle stelle. La luna seguente portò loro una nuova delusione. Jules diceva loro: «Dei figli? Può anche capitarvi, ma forse non è la vostra specialità». Kate pensò che l'ambiente dello chalet non era favorevole. Partirono, che ottobre era alle porte, per una città ricca di storia, un pellegrinaggio spirituale in luoghi dove la natura era limpida. Incominciava a roderli un dubbio sulla loro vocazione di genitori. Anche Jules aveva avuto un figlio molto più rapidamente. Dovevano continuare le formalità per il matrimonio, ma Kate aveva dimenticato di portare le sue carte, cosa che Jim interpretò come un indizio. Dalle vecchie fotografie di lei incinta, dai racconti di Jules, Jim era arrivato a pensare che Kate non era mai così totalmente Kate come quando aspettava un bambino. Jim aveva bisogno di dedicarsi a una Kate rotonda, fertile, pacificata. Si formava fra di loro un vuoto che i loro amplessi colmavano ormai solo per un attimo. Certo, si divertivano come prima, davano la caccia ai corvi senza mai riuscire a colpirli con la rivoltella e delle buone fionde, si tenevano fra le braccia, ma aspettavano la prossima delusione. Che cosa avrebbero fatto dopo? A che serve sposarsi se non si hanno figli? Pensava Jim fra sé. Ce l'immaginavamo uno più bello dell'altro, una grande casa piena, loro, Jules, le bambine, Mathilde, e camere per gli amici che avessero voglia di venire. Forse Kate riprenderà le sue avventure se non faremo un figlio. Avrebbero davvero ricominciato a lavorare. Se desideravano il successo era per allevare i loro figli. Kate aveva dal canto suo dei pensieri che non comunicava. Andava qualche volta a prendere il caffè da sola in un bar. Vi portò Jim e gli presentò un maestro di box, agile, energico, piccolo e furbo. Andarono nella sua palestra, videro dei buoni incontri. Jim tirò di box contro di lui, lo colpì una volta, fu colpito parecchie volte, sopraffatto, e si inchinò di buon grado davanti alla mobilità e alla sapienza dell'altro. Intanto il pugile insegnava a Kate la difficile arte di barare alle carte. Lei aveva una certa disposizione, Jim nessuna, e sentiva in quel bar un'atmosfera in cui Kate era a suo agio e lui no. Valentina Carnelutti ha letto Jules et Jim di Henri-Pierre Rocher, edizione Gallimard 1953, traduzione di Ena Marchi, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Per riascoltare il programma radio3.rai.it, per scaricarlo raiplayradio.it.